Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette dieci minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, chiaramente parleremo della lettera, ormai la lettera più attesa neanche tra innamorati, è una lettera che l'Italia deve mandare entro oggi a Bruxelles, spiegando come ha intenzione di ridurre il deficit dello 0,2% pari a 3,4 miliardi. Sarà importante capire quanto generica sarà la o dettagliata, al contrario, sarà la promessa italiana, fermo restando che ormai tutti si attendono che vi sia un'apertura dell'Italia su questo, e ne parleremo. Detto questo, oggi il mercato si muove anche su altri temi, fermo restando che però le indicazioni arrivate dallo spread non sono certo entusiasmanti in questi giorni, soprattutto il differenziale tra noi e la Spagna. Sì, qualcuno la chiama la lettera scarlatta. No, non è, oddio, è anche un marchio non proprio bello ricevere una lettera, però sempre meglio la lettera delle procedure di infrazione, e comunque la scelta è di carattere anche politico, come abbiamo spiegato molte volte, ossia da più parti si è fatto notare che non è un problema prettamente tecnico, ma il problema era politico, cioè se andare a dire sì tu cura l'Europa oppure mostrare la faccia feroce, diciamo così. Le indicazioni arrivate al ministro Padoan in questi giorni dopo l'Eurogruppo e l'Ecofin, attenzione, l'Italia subirebbe un danno da una lettera di richiamo e da una procedura di infrazione, vanno nella direzione di un'Italia che dice va bene, adesso cerchiamo di indicarvi come potremmo correggere il deficit. Per quello che riguarda invece, e di questo parleremo anche di temi che riguardano direttamente invece la borsa, perché ieri, come ricordavamo, in Banca d'Italia vi è stato l'incontro tra la Presidente del Consiglio di Vigilanza della Banca Centrale Europea, Daniel Nui, che non ha mai avuto un atteggiamento molto, insomma, così comprensivo nei confronti delle banche italiane, anzi, vabbè, comunque non voglio far polemica in apertura, e i 14 banchieri italiani sottoposti alla vigilanza della BCE, quindi Carlo Messina per Intesa San Paolo, Marco Morelli per il Monte dei Paschi, Giuseppe Castagna per il Banco BPM, Alberto Nagri per Mediobanca, Vittor Massià per UBI, Alessandro Vandelli per Biper, Fabrizio Viola per la Popolare di Vicenza, Marina Natale per Unicredit, perché Mustier era impegnato all'incontro con 100 investitori, a presentare a 100 possibili investitori l'aumento di capitale di Unicredit, che ieri, come abbiamo ricordato, ha tenuto molto banco, ieri e l'altro ieri. Il tema dell'incontro è quello della gestione dei non performing loan, ossia l'Italia ha un rapporto tra non performing loan e attivi bancari che è il più alto in Europa dopo la Grecia, che è molto più alta, e diciamo come noi solo il Portogallo. È abbastanza impressionante la tabella che va a mostrare la distribuzione, cioè quanto pesano le sofferenze bancarie rispetto agli attivi bancari in Europa. Dicevo, di questo separato ne parleremo anche noi, perché ricordo che l'EBA, che è l'autorità bancaria europea, ha auspicato la creazione di una bad bank europea per affrontare la massa di 1.000 miliardi di euro di crediti deteriorati che si trovano nelle banche europee. Su 1.000 miliardi, sempre lordi stiamo parlando, noi abbiamo quasi il 20%, cioè 190 miliardi in valore lordo, 88 miliardi sarebbero al netto delle rettifiche. Ancora parleremo di questo, perché comunque ieri la borsa si è mossa, oggi ci sono dei recuperi, penso soprattutto a Unicredit più 4,70%, Biper Banca più 2,60%, UBI più 2%, e ancora Banco BPM più 1,60, Intesa San Paolo più 0,90 con Mediolanum e Mediobanca. Chi perde? Luxottica al 2,20%, Enel lo 0,80, Tenaris lo 0,70, Mediaset lo 0,60. tra chi va bene e molto bene oggi Salvatore Ferragamo più 6,26%, ST Microelectronics più 3,45%, Leonardo recupera il calo di ieri più 3,30%, Leonardo Finmeccanica. A questo proposito oggi il Consiglio di Amministrazione di Leonardo Finmeccanica ha verificato che permangono in capo all'amministratore delegato Mauro Moretti tutti i requisiti previsti dalla vigente disciplina, nonché la piena capacità di esercitare le prerogative connesse all'ufficio di organo delegato, ed ha confermato all'unanimità la piena fiducia all'ingegner Moretti. Questo verranno raccontato anche i nostri GR24 dopo la richiesta che è arrivata dai parenti delle vittime invece di chiedere le dimissioni di Moretti da amministratore delegato di Finmeccanica. Leonardo Finmeccanica, le sentenze non si commentano, non l'abbiamo fatto ieri, non lo faremo neanche oggi. Faccio notare che è il primo caso in cui viene data una responsabilità del genere a un amministratore delegato in capo a un gruppo come le Ferrovie dello Stato. Comunque, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Rapidamente le altre notizie in breve. Allora, vedo anche dei messaggi sul roaming. Sì, ci occuperemo con approfondimento della decisione presa oggi a livello europeo dell'abolizione del roaming per i consumatori europei a partire da metà giugno. Lo hanno deciso sia il Parlamento che il Consiglio che la Commissione europea, che hanno raggiunto la notte scorsa un accordo sui prezzi all'ingrosso che gli operatori si applicano tra di loro per offrire servizi di roaming. È l'ultimo tassello per evitare i costi aggiuntivi quando ognuno di noi va all'estero e finisce nel roaming. Le tariffe all'ingrosso saranno a questo punto il 90% più basse di quelle attuali. E visto che stiamo parlando di Europa, restiamo sulle notizie di carattere internazionale, perché oggi, stasera, la Federal Reserve dovrebbe con ogni probabilità lasciare i tassi invariati nella sua prima riunione nell'era Trump. Trump, tra l'altro, continua a far discutere negli Stati Uniti, a scontro aperto al Congresso, i repubblicani hanno mostrato i muscoli contro il boicottaggio da parte dei democratici all'audizione di conferma delle nomine, ma questa, insomma, è tattica o guerriglia parlamentare. Invece, interessante il sondaggio della Reuters Ipsos, secondo il cui il 49% degli americani approva il bando di Trump contro i 7 paesi musulmani, quindi Libia, Siria, Somalia, Sudan, Yemen, Iran e Iraq. Il 41% è contrario, il 10% indeciso. Interessante che solo un terzo ritiene comunque che la misura renderà il paese più sicuro, ma quasi la metà, e comunque la maggioranza relativa, approva la misura di Trump. Ancora per quello che riguarda l'Europa, oggi veniamo a sapere dal secondo rapporto dell'Unione Europea sull'energia che l'Unione Europea ha già raggiunto e superato l'obiettivo sul taglio delle emissioni di CO2, che nel 2015 erano già a un 22% in meno rispetto ai livelli del 1990, l'obiettivo era il 20% per il 2020, quindi è già arrivata la strada, diciamo, del target 2020. Le rinnovabili erano già al 16%, ricordo che l'obiettivo è di arrivare al 2020 con il 20-20-20, quindi 20% delle rinnovabili, 20% del taglio delle emissioni di CO2, e tra l'altro a fronte di un taglio delle emissioni di CO2 del 22%, c'è stata una crescita del PIL dell'area dell'Unione Europea del 50% nel periodo 1990-2015, quindi ha rotto in qualche modo l'equivalenza tra riduzione delle emissioni e abbassamento o riduzione della capacità produttiva. La Gran Bretagna, oggi il libro bianco col piano che il governo britannico intende adottare nei negoziati sulla Brexit sarà pubblicato domani, questo nel giorno in cui in serata con ogni probabilità verso le 20 ore italiane, da quello che abbiamo, poi non sarà magari l'ora precisa, ci sarà il voto della Camera dei Comuni sulla legge per avviare l'articolo 50, le procedure di uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Nel frattempo dalla Germania arriva un altro dato più che positivo, non torno sulle riflessioni più o meno polemiche di ieri, ma insomma anche l'attività manifatturiera accelera, a gennaio segna un rialzo e la porta ai massimi da 3 anni, l'indice PMI è salito a 56,4 punti, il livello più alto dal gennaio del 2014, in Francia è invece fermo a 53 punti, nell'intera area euro risulta pari a 52,2 punti. E nel frattempo anche lo spread tra Francia e Germania, per quanto non a 180 come il nostro, si amplia e va a 62 punti base. Per la prima volta da 3 anni a questa parte pesa, secondo gli operatori, lo scandalo che ha coinvolto il candidato repubblicano François Fillon. Lo spread invece tra BTP e Bund viaggia a 184 punti, quello nostro con i bonus spagnoli ha una differenza di 67 punti base, molto alto, la dimostrazione che il mercato ritiene l'Italia più pericolosa della Spagna. Ancora per quello che riguarda invece notizie di casa nostra, la produzione industriale secondo la prima stima di Confindustria in gennaio su dicembre cala dello 0,2% e tra l'altro nel quarto trimestre 2016 l'attività industriale comunque aveva già segnato un rallentamento dello 0,6% sul trimestre precedente contro l'1,3% del terzo trimestre e quindi la variazione acquisita dell'anno, cioè del primo trimestre 2017, è meno 0,2%. Poi segnalo l'iniziativa del presidente di Unindustria Roma, Filippo Tortoriello, che in una conferenza stampa sul Comune di Roma, convocata nella sede dell'associazione, ha detto: è passato un tempo sufficiente e adeguato e con oggettività prendiamo atto che c'è una situazione di stasi, di mancanza di progettualità su tematiche vitali per la città e di mancanza di operatività. È chiaro ed evidente che Roma vive una situazione frutto di un pregresso, ma quando in un'azienda arriva un nuovo management questi si impegna con una progettualità a valle di oltre 200 giorni, siamo preoccupati, ribadiamo la nostra disponibilità a confrontarci con la sindaca e a lavorare, il nostro è un grido di allarme, non c'è alcun fine di mettere in difficoltà la sindaca, e quindi Virginia Raggi. E poi una vicenda che riguarda gli agricoltori sardi, agricoltori, pastori e pescatori sono scesi in piazza oggi con i trattori per protestare contro la crisi del comparto, si sono recati migliaia davanti al Palazzo della Regione in Viale Trento a Cagliari, il corteo organizzato da Coldiretti. I motivi? Beh, c'è innanzitutto il prezzo del latte per gli agricoltori sardi sceso a 0,60 centesimi al litro, questa situazione è obiettivamente molto pesante perché la CIA sostiene che sono a rischio 12.000 aziende del settore caseario sarde perché il prezzo del pecorino romano, che contrariamente al nome, come molti di voi sanno, viene prodotto alla DOP in Sardegna, è passato da 9,50 euro a 5,20 euro, con conseguenze pesantissime anche sul prezzo del latte in stalla, che ha perso oltre il 50% del suo valore ed è sceso appunto a 0,60 centesimi al litro. In crisi anche l'ortofrutta con quotazione impicchiata del 30%, qui non vi so dire però quanto conti anche l'embargo nei confronti della Russia. Il ministro Martina ha detto che si sta lavorando per tutelare il reddito degli agricoltori e degli allevatori sardi, abbiamo chiesto ad AGEA di procedere rapidamente in tempi certi allo sblocco di 100 milioni di euro di pagamenti per dare liquidità alle imprese e poi previsti anche 3 milioni di euro di aiuti diretti autorizzati dall'Unione Europea sui 6 destinati al settore ovicaprino nazionale e poi il pecorino DOP sarà inserito tra i formaggi destinati agli indigenti. Ultima notizia in breve prima di passare al tema di apertura, la lettera appunto, l'attesa lettera all'Unione Europea. Il ministro della difesa Roberto Pinotti oggi è in Iraq dove ha incontrato varie autorità locali a partire dal primo ministro Haidar al-Abadi. sui temi riguardanti la lotta all'ISIS. Però Pinotti si è recata anche a Mosul perché sono circa 1400 i militari italiani in Iraq, una presenza seconda solo agli statunitensi, che hanno in Iraq ancora 5000 effettivi. Il nostro impegno riguarda l'addestramento delle forze dell'esercito federale iracheno, delle milizie curde, peshmerga, e questo nella regione però autonoma del Kurdistan, oltre alla protezione del personale che lavora alla messa in sicurezza della diga sul Tigre a nord di Mosul, quella che è curata dalla società Trevica italiana, sono di Cesena. Gerardo Pelosi, inviato da Sole 24 Ore, ha chiesto al ministro Pinotti se esistano e come stia andando l'attività e la protezione dell'attività della Trevi per mettere in sicurezza la diga di Mosul. Ho incontrato il responsabile della ditta Trevi proprio prima di partire, so che lo rincontrerò alla diga di Mosul. C'è un, diciamo, c'è una discussione aperta con il governo iracheno per alcune questioni, ma complessivamente il lavoro va avanti molto bene, sono nei tempi corretti, sono soddisfatti del, anzi forse hanno anche anticipato, sono soddisfatti del lavoro che stanno facendo. C'è un pezzo di Italia importante, perché fra militari che sono più di 450 circa e poi i lavoratori della ditta Trevi, diciamo abbiamo circa 1.000-1.200 persone che rappresentano un progetto italiano importante. I militari garantiscono la sicurezza, la ditta Trevi garantirà il fatto che una diga così fondamentale non debba avere problemi strutturali. Allora, partiamo col primo tema che abbiamo battezzato Cara Unione Europea ti scrivo, un po' per ironizzare sulla lettera, una lettera attesissima. Allora, le richieste di Bruxelles sono un aggiustamento di 3,4 miliardi, lo 0,2% del PIL. Ieri l'incontro, ieri sera, tra il ministro Padoan e il presidente del Consiglio Gentiloni. Il governo intenderebbe scegliere una strategia più adatta anche per affrontare nuove spese per il terremoto e però assicurare anche il rispetto delle regole finanziarie europee. Non vuole nuove tasse, l'idea però sarebbe di rinviare il dettaglio al prossimo documento economico finanziario, al prossimo DEF. È come si diceva in questi casi un percorso molto stretto. La risposta italiana sarebbe, porterebbe un richiamo sui fattori rilevanti, dalla deflazione alle spese aggiuntive per il sisma, e questo per alleggerire la spesa di un decimale, portarla, diciamo, l'extra deficit da ridurre, portarlo a 1.700 milioni, però si rifiuta, da quello che abbiamo capito, alcun ritocco su di toccare l'IVA né rinviare le misure sulle pensioni. Adriana Ceretelli in collegamento con noi da Bruxelles, buonasera Mitica. Buonasera. Allora, poi parleremo anche del tuo fondo sul Sole 24 Ore di ieri, i conti dell'Italia e i nemici dell'euro. Vorrei capire, insomma, qual è l'attesa o il clima che si respira a Bruxelles. Magari nessun clima, stanno semplicemente attendendo questa lettera sperando che le poste funzionino. Beh, certamente, a proposito di efficienza del sistema Italia. No, a prescindere, diciamo, a parte gli scherzi, diciamo che a Bruxelles non c'è voglia di fare la guerra con nessuno, si vorrebbe un accordo. Però naturalmente per fare un accordo bisogna essere in due. L'Italia non si può presentare con diciamo impegni tutti teorici, deve cercare di portare qualche cosa di concreto. D'altra parte, proprio all'indomani dell'Ecofin Eurogruppo dell'altro giorno, proprio Dombrovskis, il vicepresidente, ha detto chiaro: noi chiediamo impegni precisi. Quindi io credo che almeno debbano specificare le cifre di quello che vogliono fare e naturalmente le misure che intendono adottare. Ma non credo che basti una generica lettera in cui si dice sì, faremo, ecco, faremo in aprile. Questo non penso che verrebbe accettato. E quindi, diciamo, diventa tutto un gioco, anche si diceva una volta che il diavolo si infila e si insinua tra nei dettagli, su quanto l'Italia riuscirà a promettere ad essere specifica o precisa, senza però andare, diciamo, a misure immediate. Penso all'IVA Quello penso di no, però deve essere molto precisa. E non tirar fuori, secondo me, le solite cose tipo, no, lotta all'evasione fiscale. cioè tutte queste cose che certamente, per carità, qualcosa hanno portato, ma questi cercano, insomma, non so, dei tagli alla spesa, delle cose un pochino più concrete, anche se non da fare immediatamente. Sì, anche perché devono rispondere a elezioni tedesche soprattutto, esatto, e francesi. No, si rendono conto che l'Italia ha le elezioni, ma anche gli altri hanno le elezioni. Quindi, insomma, bisogna trovare un punto di equilibrio e di buonsenso. Sì, appunto, sarà, diciamo così, una lettera in punta di penna, o vediamo anche la risposta, sarà anche in punta di penna. Dopo però il meteo, Adriana, vorrei ritornare, come dicevo, sul tuo fondo di ieri, Conte dell'Italia e i nemici dell'euro, perché ieri ho ricordato di nuovo quanto la Germania abbia beneficiato di questa gestione dell'euro, e tutti i dati tedeschi vanno in questa direzione, dalla disoccupazione all'export, al surplus più alto di quanto chiede l'Europa, quant'altro. Però appunto, visto che non diamo solo, non ci limitiamo a guardare quello che ha fatto la Germania, ma guardiamo anche in casa nostra, la tua lettera era anche un appello a non esagerare e individuare solo come in esterne le colpe della situazione in cui siamo, fermo restando che poi ognuno può pensare come vuole sulla gestione europea a trazione tedesca di questi anni, però anche il rischio c'è sempre in questo paese, quando tu critichi o trovi anche un elemento esterno, di essere autoassolutori sulla parte interna. Ne parliamo dopo il meteo e la pubblicità. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. State ascoltando un programma offerto da Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Focus Economia. Allora, dicevo dell'articolo di ieri su Sole 24 Ore, i conti dell'Italia e i nemici dell'euro, dove, lo dico, insomma, in questi anni, per chi si fosse perso alcune puntate, Adriana Ceretelli ha criticato, non dico come me, ma insomma, le posizioni tedesche di solo rigore, che hanno portato, come dicevamo ieri, a un dato politico inequivocabile, la disaffezione anche nei paesi più affezionati tipo l'Italia all'Europa. Detto questo, il rischio in questo paese è sempre che quando tu vai a criticare un atteggiamento esterno, diventi autoassolutorio per quelle che sono le nostre colpe, e noi cerchiamo di farlo, ripeto, ogni venerdì con la classifica, con la poco invidiabile classifica, far capire quanto spreca ancora la nostra pubblica amministrazione e quanto non abbiamo fatto. Adriana, quali sono i luoghi comuni in cui l'Italia questa volta, non la Germania, rischia di cadere per diventare comunque autoassolutoria? Ma il fatto, per esempio, che si tende a copiare Grillo un po' troppo, nel senso che si tende ad attaccare l'Europa come se i nostri guai dipendessero dall'Europa. In questo caso, secondo me, non è assolutamente vero, perché non è vero che l'Europa, negli ultimi due anni, è stata matrigna nei nostri confronti. Ci ha concesso 19 miliardi di flessibilità per le riforme fatte, per il terremoto, per gli immigrati, quindi 19 miliardi non sono pochi, sono ben di più dei 3,4 miliardi che ci chiede di manovra. In più, secondo me, c'è il fatto che se ci chiede questi 3,4 miliardi, in realtà ci fa uno sconto su quello che ci potrebbe chiedere, perché lo sfondamento rispetto agli impegni che avevamo presi è il quadruplo, cioè è lo 0,8% del PIL, perché noi avremmo dovuto abbattere il deficit strutturale, che significa quello al netto della congiuntura economica, di quella cifra, perché abbiamo un enorme debito. Ora poi c'è il rischio del debito, che essendo così grande, essendo noi in una situazione di grande beneficio dalla politica della Banca Centrale Europea a proposito di tassi bassi e di quantitative easing, cioè acquisto dei titoli che vengono emessi dallo Stato. Ecco, siccome questa situazione probabilmente entro la fine dell'anno, ma addirittura prima, potrebbe cambiare, questo vorrebbe dire che noi oggi risparmiamo 20 miliardi sugli interessi che abbiamo per il debito, questi 20 miliardi ce li ritroveremmo a dover pagare. Quindi ci sono dei rischi enormi per il sistema Italia. che non dipendono dall'Europa, ma dipendono dal fatto che noi abbiamo continuato a fare, dopo tutto e nonostante tutto, le cicale. È vero che c'è tanta gente che dice: ma io i sacrifici li ho fatti. Sì, ma i sacrifici sono stati fatti in un contesto in cui il sistema paese non è stato, come dire, ristrutturato, modernizzato, flessibilizzato, reso, diciamo, adatto a vivere nel mondo della concorrenza globale. E questi sono dati di fatto che non possiamo, diciamo, pretendere che l'Europa ci risolva. Dobbiamo uno su tutti è la spending review. Adesso non è da lì, però un segnale. Io ho criticato più volte l'atteggiamento dell'ex governo Renzi nei confronti dell'ex commissario alla spending review Cottarelli, perché non si fa fare tutto un rapporto, un libro bianco sulla spending dettagliato, e poi lo si fa tornare al Fondo Monetario e si ricomincia da capo. Non ce l'ho con Joram Gutgeld, nostro ospite più di una volta, però è indubbio che la spending review è stata quantomeno sospesa perché c'era sto cavolo di referendum, nel senso che allora andare a tagliare la spesa, poi come tutti i tagli c'è qualcuno che si lamenta, lo trovi, no? E politicamente, certo. Però con questa logica, e lo dico visto che ieri abbiamo criticato, e confermo tutte le mie critiche alla miopia tedesca, se non a vantaggio appunto del PIL anno su anno, ma guardate in che situazione è l'Europa e la forza che hanno i partiti anti-europeisti. Oggi è qualche responsabilità, il primo paese d'Europa, quello che ha guidato di fatto la Commissione, se la deve pur prendere. Detto ciò, se si riesce a tenere assieme due cose, noi abbiamo delle responsabilità nell'aver dato il segnale che abbiamo chiesto degli sconti e li abbiamo ottenuti anche, però poi tutti questi grandi riforme, a parte il Jobs Act, può piacere o no, ma è stata una riforma, non vi sono state. Penso alla spending, perché è quella più la palissiana, penso anche alla lotta all'evasione fiscale, quella seria, non quella fatta, diciamo, da Equitalia con gli artigiani sugli studi di settore. E su questo, voglio dire, abbiamo poco da criticare Bruxelles, lo dico molto tranquillamente. Detto ciò, Adriana, su questo c'è chi dice: attenzione, vabbè, ascolti la Ceretelli, Barisoni, non solo l'ascolto, la invito pure. Per cui, cosa rischiamo? Nel senso che l'obiezione che viene fatta da, voglio fare anche in questo caso l'avvocato del diavolo, è: va bene, però la Francia è ampiamente sopra il 3% di deficit sul PIL e nessuno le fa procedure di infrazione. La Germania, tutta un'altra storia, però continua ad avere un surplus ben più alto di quello che sono le raccomandazioni europee e nessuno le fa un'obiezione. Ma questa è una vecchia storia, naturalmente. La questione della Germania, il surplus esiste e la frugalità tedesca nuoce all'Europa, però non c'è una regola vincolante come quella sul deficit o sul debito che possa imporre alla Germania di fare questo. Si può solo semplicemente, fare una pressione di tipo morale, ma non si può imporle questo. Il caso della Francia è un caso a parte, è sempre stato, la spalla della Germania, il paese di cui la Germania ha bisogno, tant'è vero che la Francia, pur dovendo pagare in teoria gli stessi spread che paghiamo noi rispetto al Bund, in realtà è sempre stata al riparo dei mercati, anche se l'altro ieri abbiamo visto lo spread muoversi, proprio perché la situazione in Francia, politicamente parlando, si sta piuttosto aggravando. Sì. E quindi questo naturalmente è un fatto. Però io voglio dire, io sono d'accordo sulle polemiche e sono la prima a farle quando lo ritengo opportuno, ma in questo caso diciamo che è inutile che noi continuiamo a cercare la Germania, la Francia, il pinco pallino. Secondo me è nel nostro interesse, non nell'interesse dell'Europa, diventare un paese forte, credibile, recuperare i tassi di crescita che avevamo una volta. Perché non è che noi lo faremmo per l'Europa, lo faremmo per noi, perché noi stiamo male. Cioè non siamo in questo momento un paese al meglio delle sue possibilità e noi dobbiamo ritrovare il potenziale della nostra crescita, la capacità di innovare, di creare futuro. Oggi noi non creiamo più il nostro futuro, non lo facciamo e in questo modo purtroppo nel mondo competitivo che c'è non funziona. Ma direi che c'è un altro problema ancora, oltre al rischio che il debito e il servizio aumenti e quindi tutti i problemi finanziari conseguenti per la sostenibilità. c'è un problema che è il fatto che l'Europa così come sta non può continuare, cioè perché da una parte c'è Brexit, ma soprattutto perché c'è Trump che sta sconvolgendo l'ordine mondiale e chiede all'Europa di fare la sua parte o comunque le dice non contare più su di me. Ora, in questa situazione, passata la stagione elettorale che finirà in ottobre, l'Europa sicuramente ricomincerà a negoziare per arrivare a un nuovo assetto istituzionale, cercando di fare una selezione più intelligente dei partner, eccetera. In quell'occasione, se noi non saremo, diciamo, pronti con delle carte in regola, altro che dire, ah beh, sai cosa c'è, noi usciamo dall'euro, noi rischieremo di essere condotti alla porta dell'euro con tutti i guai che ne deriverebbero, con buona pace tutti quelli che teorizzano l'uscita, perché in ogni caso quasi un 1.000 miliardi del nostro debito, quasi, è in euro, e se noi usciamo lo dovremmo pagare in euro, con quale soldi? Beh, guarda, questa è una cosa su cui non riesco mai ad avere una risposta, perché è una situazione che io eviterei di andare a scoprire, perché veramente temo che per noi sarebbero guai, ma guai addirittura inimmaginabili e inimmaginati. Sì, no, guarda, questa è veramente una di quelle cose che non riesco a capire, perché io non difendo l'euro perché mi piace l'euro, dico semplicemente che fare il marito cornuto che si taglia la parte, diciamo, l'organo riproduttivo non è il massimo della scelta. Allora, un conto è criticare questa gestione dell'Europa, un conto è anche poi riconoscere quello che non abbiamo fatto, e questo paese le cose le devono sempre fare gli altri, e come tocchi qualunque tipo di rente di posizione insorgono, ma attenzione che il rimedio è peggio del male, nel senso che quando tu hai 1.000 miliardi almeno di debito espresso in euro, se tu domani rintroduci la lira, mettiamo anche che valga la metà, una svalutazione del 50%, ti devi pagare quella cifra in più sul debito che hai in valuta estera. Okay? Certo. Allora, per carità, tu dici, ma io svaluto così esporto, a parte che abbiamo spiegato in tutti i modi possibili che le nostre imprese in questi anni esportano e hanno esportato tanto anche con l'euro 1,40, adesso 1,07 sul dollaro, perché si erano posizionate su una fascia medio-alta, non perché facevano concorrenza alla Cina o alla Romania o la Bulgaria, non ce la fai in quel modo. Ma detto questo, tu potrai anche forse esportare qualcosa in più, ma l'inflazione che ti becchi sarebbe altissima, inflazione interna, perché chiaramente tu non solo per i tassi di interesse ma anche per i beni importati. Faccio notare in maniera molto sommessa che quando tu hai una grossa inflazione i primi a prenderla in quel posto sono i redditi bassi, da sempre, a maggior ragione se sono in busta paga trattenuta alla fonte, okay? Perché non riesci mai ad adeguare i salari all'inflazione e vai a erodere il potere d'acquisto proprio degli 800 euro del pensionato, punto. Beh, ma è sempre successo così, l'inflazione non ha mai danneggiato i ricchi, se vogliamo parlare in questo modo, ha sempre danneggiato il potere d'acquisto delle fasce medio-basse. Qualcuno negli anni 70 se lo ricorda sta cosa, perché l'adeguamento contrattuale non riesce mai a tenere il passo all'inflazione. Detto questo, grazie Adriana Ceretelli, andiamo sul traffico e poi parliamo del roaming, la borsa, titolo di Stato, o meglio le sofferenze bancarie, scusatemi, in pancia alle banche italiane, e chiaramente gli altri temi di questa puntata. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Focus Economia. Allora, andiamo sulla borsa. Vedo che il tema dell'euro, mamma mia, che avvelenamento dei pozzi. C'è chi mi scrive, beh, allora cosa, anche se non dovessimo pagare il debito, cosa succede? Ci tagliano la luce, ci tagliano il gas. Ragazzi, ma state scherzando? Cioè, ma vi ricordate cosa è successo all'Argentina quando fu dichiarata insolvente con tutti i creditori internazionali? No, le casalinghe in piazza con le pentole, adesso cercherò anche di ricordarmi come si chiamava il movimento, cioè non si pagavano gli stipendi, i conti correnti bloccati. Allora dice l'Argentina è un altro caso, va bene, prendiamo la Grecia, che non è mai uscita dall'euro ma era, diciamo, a un passo. Qualcuno se lo ricorda il blocco dei prelievi e bancomat, i pensionati in fila? Allora tu non puoi non ripagare un debito. Poi qualcun altro mi scrive, ma come mai abbiamo fatto tutto questo debito in euro? Beh, ragazzi, dal 2001 il debito funziona così, che ogni anno va a scadenza una parte, i famosi botta un anno, botta sei mesi, oppure nel corso degli anni BTP a tre anni, a cinque anni, e tu lo rifinanzi, paghi i vecchi creditori e metti, con le aste che noi raccontiamo, e metti il nuovo debito. Ecco, dal 2001 il nuovo abbiamo pagato, nel frattempo il nuovo debito è emesso, è tutto in euro, ma non è che è normale, è la valuta che stiamo usando. La California, poi andiamo avanti. La California dichiarò il fallimento, ce ne occupiamo, eravamo già in onda, all'interno della stessa moneta, ed è uno stato federale, ok? In un paese federale. Ma non è che la California si è messa a emettere dollari californiani, questo stiamo commentando. E si può ragionare sugli un male o un rimedio peggiore del male, senza, oppure continuando a criticare la gestione dell'area euro a trazione tedesca, miope o meglio, a vantaggio solo dei tedeschi. Allora, la borsa più 0,81%, Ferragamo più 6,60, e poi recuperano alcune banche, Unicredit più 5,70, Bipper più 2,30, Ubibanca più 2%, molto bene anche Steam Microelectronics più 3,5%, in recupero anche Leonardo, ex Finmeccanica più 3,5%, come sempre il commento con i colleghi di Radio Cori, Sole 24 Ore. E Flavia Carletti, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, Ferragamo, ST e le banche. Sì, allora, Ferragamo è stato il miglior titolo della seduta, ha chiuso il rialzo del 6,63% dopo la pubblicazione dei conti. In particolare quello che è piaciuto al mercato sono stati i conti del quarto trimestre, che è stato chiuso con ricavi in crescita dell'1% a cambi costanti e del 4% a cambi correnti, mentre invece l'anno, tutto il 2016, diciamo, nella differenza tra cambi correnti e cambi costanti, in qualche modo c'era stato poi un calo, mentre invece, diciamo, il fatto che gli ultimi tre mesi dell'anno e le indicazioni sul primo mese del 2017 siano stato positive hanno premiato il titolo. E poi sale inoltre anche l'attesa per la presentazione del piano da parte del nuovo amministratore delegato, che verrà fatta venerdì a Firenze. Mentre invece parlavamo di Leonardo Finmeccanica, che ha fatto più 3,44% recuperando dalla debolezza di ieri, perché molti analisti oggi sono usciti dicendo che comunque il calo di ieri dopo la condanna di Moretti è stata eccessiva, e comunque si aspettano che, visto che Moretti ha fatto molto bene, in qualche modo il giudizio sul suo operato venga un po' separato da quello che è stata la condanna, che risale, hanno sottolineato tutti, a fatti precedenti alla sua nomina a Leonardo, l'ex Finmeccanica. Poi invece STM ha chiuso con un rialzo del più 3,45%, è andata un po' sulla scia della cliente Apple, perché Apple ha pubblicato i conti dell'ultimo trimestre, che sono andati molto bene, soprattutto grazie alle vendite del nuovo iPhone 7, che usa tra le sue componenti proprio un sensore che viene prodotto da STM. Poi mi chiedevi appunto delle banche. Oggi la regina, diciamo, del settore è stata Unicredit, che ha chiuso con un rialzo del più 5,72%, perché c'è il mercato che aspetta quello che è il prezzo dell'attesa aumento di capitale già annunciato da 300 miliardi di euro. Allora, poi c'è Luxottica invece che va male, meno 2%, e non è l'unica nel settore, anche Safilo è il peggior titolo in assoluto, meno 7,5%. Qui che cosa è successo? C'è stata l'ufficializzazione dell'accordo in cui il gruppo francese Louis Vuitton Moanessi diventa il primo azionista di Marcolin con il 51%, ed è una risposta di fatto alla mossa di Luxottica, l'abbiamo raccontata, che si è fusa con la francese Silor. Come spiegano i 100 secondi, oggi li abbiamo voluti mandare apposta in questo momento, i 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, trasmessi anche su RDS, a firma oggi del vice direttore Alberto Orioli. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Ormai è visibile a tutti la guerra degli occhiali che costringe i gruppi italiani a riposizionarsi su un mercato globale. Oggi è la volta del gruppo Marcolin, che fa entrare nel suo capitale il colosso della moda LVMH, che diventerà primo azionista del nuovo gruppo con il 51%. Il senso dell'operazione è che il nuovo operatore integra la produzione di occhiali ai marchi direttamente controllati da LVMH, che sono parte fondamentale nella creazione del valore di questi prodotti. È la risposta all'altra grande mossa che il gruppo Luxottica di Del Vecchio aveva fatto poche settimane fa con la joint venture con il colosso francese delle lenti Essilor. Da questo è nato un grande gruppo multinazionale da 140.000 addetti e una presenza in 150 paesi. Obiettivo in questo caso è creare prodotti di correzione o protezione della vista per ben 7,2 miliardi di potenziali clienti. Va tenuto presente che il gruppo francese da solo ha già un portafoglio di 1 miliardo di clienti nel mondo, e Luxottica, dal canto suo, gestisce in esclusiva la stragrande maggioranza dei marchi della moda. A farne le spese è il terzo attore italiano, il Safilo, 8.000 addetti e una presenza commerciale in 130 paesi del mondo, che sta perdendo molto in borsa perché gli analisti stimano che il gruppo, che dipende per oltre un terzo dei suoi prodotti proprio da marchi di LVMH, sarà probabilmente penalizzato dalla nuova mossa di Marcolin. Safilo ha di fronte due strade, scegliere di aggregarsi a Luxottica e Siloro e al nuovo player Marcolin LVMH. Terze vie sono sempre possibili, ma al momento sembrano un po' più difficili da percorrere. L'importante è che questa guerra del Made in Italy faccia salvi comunque prodotti e marchi storici, nonché naturalmente preziosi posti di lavoro. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, infatti così si giustifica il calo di Safilo del 7,5%, Gambero Rosso meno 6,70% e poi invece tra i migliori in assoluto Innovatec più 17%, SMRE più 16%, ROS più 14% come TAS. Ovviamente l'aumento di capitale di Unicredit, correggo io, refuso dalla collega Carletti, è di 13 miliardi, non 300 miliardi, adesso già tanto 13. E abbiamo visto anche il bilancio l'altro ieri, figuriamoci 300, è 13 miliardi di euro. Grazie intanto a Flavia Carletti, andiamo sul GR24, una sola battuta, chi mi dice il Giappone vuole annullare il suo debito? Guardate, bisogna informarsi però, il Giappone, la stragrande maggioranza del suo debito ce l'hanno i giapponesi stessi, ha la sua valuta e ha il 90%, se vado a memoria, del suo debito è in mano ai risparmiatori giapponesi. Noi abbiamo una situazione leggermente opposta. Allora, se tu svaluti un'eventuale lira mettendo che fosse il 50% di quello che vale l'euro, quindi dimezzi il valore e ti raddoppia il debito, ma non è che ci vuole un genio a capirlo. Poi, se qualcuno mi spiega come facciamo a pagare in lire un debito emesso in euro senza beccarci la svalutazione che avrebbe la lira, siamo qua pronti ad accoglierlo. GR24. Ti piacerebbe entrare davvero nella caverna di Platone? Radio 24 con Alessandro Milan e Leonardo Manera ti aspettano domenica 5 febbraio al Teatro Manzoni di Milano per ridere e divertirsi con l'attualità. Platone, la caverna dell'informazione, il lato comico dell'attualità. Tutte le info su radio24.it e teatromanzoni.it. State ascoltando un programma offerto da Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Focus Economia. Minuti, parliamo adesso di roaming. Devo dire che, per carità, è libero anche di pensare che si possa uscire dall'euro senza dolori. Giustamente qualcun altro mi dice: ma cosa capiterebbe ai mutui che sono espressi in euro nel momento in cui tu dovessi adottare una valuta? Io ho detto 50%, cioè che valga la metà dell'euro, non ho la minima idea di cosa andrebbe a finire la nuova vecchia lira su questo. E va bene, c'è chi dice no, facciamo la regola dell'1-1. Sì, tutto. Guardate che quando tu sei un debitore, non detti tu le regole, questo vale nel privato nei confronti di una banca o di un'istituzione, vale anche nel pubblico. Cioè, è difficile che il paese che ha il più alto debito d'Europa possa dettare le regole su come ripagare il suo debito, non si è mai visto in natura. Poi uno può anche illudersi di tutto, no, ma quella più bella, però devo dire, perché insomma c'è anche un po' di confusione: come mai, mi scrive uno ascoltatore, l'Inghilterra esce dall'euro senza problemi? Forse perché non ha mai abbandonato la sterlina. Mi scusi, ma l'Inghilterra esce dall'euro senza problemi perché non è mai entrata nell'euro, era nell'Unione Europea. Qui si confonde moneta unica con Unione Europea, si è risposto da solo. Come mai esce da una cosa da cui non è mai entrata senza problemi, perché non c'è mai entrata? Qui siamo proprio alla... Va bene, va bene. Enrico Pagliarini, dacci una buona notizia dall'Europa, perché che riguarda il roaming, ossia quello che noi paghiamo ogni volta che andiamo all'estero, tutti gli europei, un francese che venga in Italia come un italiano che vada in Francia. Anche prego. Quelli della Gran Bretagna. E anche quelli della Gran Bretagna. Dunque, buonasera. Allora, dal 15 di... la buona notizia che già sapevamo è che dal 15 di giugno vengono azzerati gli extra costi del roaming. Quindi quando andiamo all'estero, appunto, navighiamo in internet oppure telefoniamo. La notizia di oggi è che nella notte è stato trovato un accordo sui costi all'ingrosso, cioè i costi che gli operatori di telefonia mobile si pagano tra di loro quando noi utilizziamo la rete di un altro operatore. Quindi, facendo l'esempio, se noi abbiamo il nostro operatore italiano e andiamo all'estero, il nostro operatore italiano pagherà questa tariffa all'ingrosso all'operatore straniero al quale noi ci agganciamo. È stata una trattativa piuttosto complicata perché si è dovuto trovare una quadra e una sorta di media all'interno dell'Unione Europea. Il problema qual è? Che se guardiamo ai costi all'ingrosso e anche ai costi che poi i consumatori pagano all'interno dell'Unione Europea, ci sono molte differenze. Quindi trovare una media che accomuna tutti è stato molto complicato. Ricordiamo che sì, scompaiono i costi di roaming, ma non sempre e non per tutti. Facciamo l'esempio più estremo. Se io comprerò dal 15 di giugno in poi una SIM di un paese dove la telefonia mobile costa molto poco, comunque molto meno rispetto all'Italia, ad esempio la Lituania, ci saranno dei meccanismi per garantire il fair use, l'equo utilizzo di questo roaming a zero, tali per cui io non potrò fare questo, cioè il roaming a zero varrà solo per chi si sposta, cioè per chi viaggia. Ci saranno meccanismi che tra l'altro sono anche piuttosto complicati. Cioè, tu mi stai dicendo che vale solo se io sono se viaggi fisicamente in Francia, usando l'esempio di prima, non se chiamo un telefono francese. Sì, ma soprattutto se viaggi per periodi abbastanza brevi. Cioè se tu ti compri una SIM straniera e la usi in Italia permanentemente, quindi praticamente il traffico lo fai qui in Italia e il traffico nel paese d'origine della SIM è zero, l'operatore capisce questo uso non equo e in quel caso potrà applicare costi extra roaming. Questo per evitare degli abusi, cioè l'abuso più eclatante è quello di utilizzare SIM di paesi dove la telefonia mobile costa molto poco, certo. E quindi utilizzare. Un po' come la storia delle targhe straniere che vengono registrate in paesi dove non c'è la residenza, cioè utilizzare un vantaggio di un altro paese nel paese di residenza. Quindi è stata una trattativa piuttosto complicata, si è arrivati ad una sorta di compromesso. Non dovrebbero esserci delle sorprese, anche se ricordiamo che quello che è stato stabilito nella notte è un accordo a livello tecnico tra Parlamento, Consiglio e Commissione Europea, tra i tecnici di queste tre istituzioni, e entro il 15 di giugno dovrà essere approvato definitivamente sia dal Parlamento che dal Consiglio Europeo. Non dovrebbero esserci delle sorprese, ma potrebbero anche esserci delle sorprese. Comunque la buona notizia è che quando noi viaggiamo sia per lavoro che per turismo, quando o telefoniamo o navighiamo in Italia. Ma per concludere, il calo delle tariffe del 90% più basse delle attuali? È all'ingrosso. Sì, è all'ingrosso, però devo anche dire che questo 90%. Cosa vuol dire all'ingrosso, scusa? È l'ingrosso, cioè quello che io pago, cioè che io operatore di telefonia mobile pago all'altro operatore e non vede il consumatore finale, cioè sono le tariffe che ci scambiamo noi operatori quando utilizziamo la rete l'uno dell'altro. Però attenzione, questo calo del 90% è un po' fittizio, perché la situazione di oggi, ci sono delle tariffe che sono stabilite per legge, però negli ultimi anni il mercato si era di molto allontanato dalle tariffe stabilite per legge, cioè si era posizionato verso il basso, e quindi questo calo del 90% è un po' un calo virtuale, nel senso che le tariffe, il mercato si era già posizionato verso il basso e si erano già abbassate. Bisognerà vedere al di là di quello che dice la norma, perché queste sono tariffe massime, poi gli operatori si possono anche mettere d'accordo su altro tipo di tariffa, bisognerà vedere gli accordi che prenderanno gli operatori. C'è chi dice, questa è una possibilità, che saranno avvantaggiati, ma questo è anche abbastanza facile da immaginare, saranno avvantaggiati i grandi operatore francese, grande operatore italiano, che riescono a trovare un accordo, piuttosto che il piccolo e il grande. Però se io sono abbonato a un piccolo operatore e vado in un altro paese, gli operatori dovranno trovare un accordo. A meno che, questa è un'altra possibilità, potranno nascere delle tariffe che non prevedono il roaming. Cioè, ti dicono, questa è una tariffa che vale solo per il tuo paese. Cioè, se vai all'estero devi o abbonarti a un altro operatore oppure pagare un sì, ecco, basta che non rientri dalla finestra il tema che sostengono i consumatori, ci è costato 8 miliardi e mezzo agli europei, e quindi che non rientri, che tu Dico, se vuoi roaming paghi una tariffa molto più alta che per l'utilizzo. Allora, questo non dovrebbe succedere per i grandi operatori, però potrebbe, è una opzione, diciamo, che potrebbe accadere per i piccoli operatori specializzati. Ci sono, oltre ai grandi operatori, ricordiamo che ci sono un sacco di operatori virtuali che ti danno il servizio di telefonia mobile ma usano la rete dell'operatore, di uno dei grandi operatori. Quindi questi operatori... Sì, allora mi dice un ascoltatore che non si è capito l'esempio. No, l'esempio è molto chiaro, a mio avviso, e cioè se tu... se viene dimostrato che tu hai una SIM anche straniera, sì, ma la utilizzi in un altro paese, costantemente no, è chiaro che stai facendo il furbo, perché magari è stato comprato l'abbonamento in un paese in cui costa meno e per usarlo in Italia. A quel punto non è più roaming, non sei tu, non sei un rumeno, dico Romania per dire, che è venuto in Italia e sta lavorando in Italia, ma sei un italiano che si è comprato la scheda in Romania e vuole fare il furbo. Altra cosa se invece si vede che questo traffico è limitato nel tempo e la maggior parte del traffico lo sviluppi nel paese di cui hai la SIM, per perfettamente, capirci. Perfettamente. Grazie Enrico Pagliarini. Grazie a voi. E adesso andiamo verso il traffico per poi parlare invece dei non performing loans, delle sofferenze bancarie dopo l'incontro ieri del numero uno europeo sul tema. Mi riferisco alla Presidente del Consiglio di Vigilanza del BCE, Daniel Nui, con i 14 banchieri italiani sottoposti alla vigilanza della Banca Centrale Europea. Allora, mentre arriviamo al tema, devo qualche risposta ad alcuni ascoltatori. Però quando sei debitore non detti le regole, che cosa hanno fatto i grandi debitori, le banche, che erano i grandi debitori delle banche? Allora, è un po' diverso il tema. Ho solo detto, ma posso dire una cosa adesso? Ma perché un conto è dire che l'Italia, avendo un grande debito, può avere un potere di ricatto per la tenuta dell'euro più forte e bisogna saperlo giocare politicamente. E questo ha un senso, dire guardate che se l'Italia va in difficoltà finisce l'euro definitivamente anche per gli altri, e avere questa come minaccia, quindi il famoso too big to fail, cioè essere un debitore talmente grande da poter far pesare questo debito anche a livello europeo, per dire guardate che se ci strangolate se l'Italia, diciamo, va a gambe all'aria, va a gambe all'aria l'intera Europa. Ma se tu esci dall'euro non hai neanche più questa potere o capacità di trattativa, di minaccia, diciamo, di spauracchio reale, perché lo sarebbe realmente. E poi nessuno mi sa rispondere, ma perché i greci che si erano votati Tsipras, che si sono votati Tsipras, che avevano Varoufakis come ministro all'economia, che erano in ginocchio dalle misure che abbiamo sempre giudicato eccessivamente penalizzanti, punitive e non diciamo, proattive, non costruttive da parte di Fondo Monetario e soprattutto della Commissione Europea per richiesta alla Germania, ma perché nemmeno la Grecia ha voluto uscire dall'euro? Se nemmeno un paese come quello, che non ha neanche il problema ha un debito enorme, ma non è un debito così grande numericamente come quello italiano, perché perfino loro hanno fatto il possibile per restare nell'euro? Qualcuno me lo deve spiegare. Cioè, tutti i soloni che dicono che sarebbe una cavolata facilissimo uscire dall'euro e tornare alla lira, mi devono spiegare perché nemmeno un paese come la Grecia, quando si è vista bloccare i trasferimenti per cui non riusciva a pagare le pensioni, 50 euro di prelievo massimo al giorno, ha optato per uscire dall'euro. Quando sentirò una risposta, forse capirò anche dove vuole parlare, perché la ricerca di elementi traumaturgici così miracolistici non esiste. Bisogna andare a trattare in Europa, avere peso in Europa, non fare le toccate fuga, non fare le scenatine e poi tornare a casa. E certo che fai pesare il fatto che l'Italia con il suo debito è un paese che devi tenere dentro l'area euro agli altri partner. Però rispondetemi anche sui dati. L'Islanda, certo, 300.000 abitanti, va bene, mai entrata nell'euro, va bene. L'Islanda, paragoniamo l'Italia all'Islanda, dai. Allora, andiamo sul traffico e poi invece l'incontro di ieri sulle sofferenze bancarie italiane e tra l'altro, anche visto che l'EBA aveva anche... L'autorità bancaria europea ha auspicato la creazione di una bad bank europea per affrontare la massa dei 1.000 miliardi di euro di lordi di sofferenze in giro per le banche europee. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Focus Economia. Allora, c'è qualcuno che mi scrive: ma la Grecia ha chiesto soldi al Fondo Monetario? Noi no. Ma cosa c'entra? Qui stiamo dicendo perché nemmeno la Grecia ha chiesto di uscire dalla moneta unica, visto che ha avuto un trattamento da parte di Bruxelles, a nostro avviso, non solo, diciamo, vessatorio per alcuni versi, pur avendo commesso degli errori ed avendo delle colpe tutte sue. Comunque, volevo dare un aggiornamento sul mercato auto, che parte forte anche a gennaio in Italia. Le immatricolazioni, dato appena uscito, sono state il 10% in più di gennaio 2016, ossia 171.556, e continua ad andare meglio del mercato il gruppo Fiat Chrysler, che ha fatto più 12,3% di vendite a gennaio, appunto, contro un mercato al 10%, più 12% rispetto al gennaio 2016. La quota complessiva del gruppo Fiat Chrysler sale quindi al 29,9%, guida la crescita delle immatricolazioni del gruppo Fiat il marchio Alfa Romeo, più 27%, e bene anche Fiat, più 14,5%. Allora, se uno prendesse una mappa in Europa e guardasse quello che è il rapporto tra le sofferenze, quindi crediti deteriorati, prestiti che tu hai fatto, che la banca ha fatto e che non arriverà più indietro, e gli attivi bancari, vedrebbe che il rapporto è di 2,2 in Gran Bretagna, di 1,7 in Norvegia, ma andiamo su Germania 2,6, Francia 3,9, Belgio 3,6, Spagna inizia a essere un po' più alto, 6, il rapporto tra in percentuale, cioè quante percentuali sono le sofferenze sugli attivi bancari, 6% in Spagna, cresce un po' di più in altri paesi, ma l'Italia è al 16,5%, quindi siamo a, diciamo, 5 volte la Francia, 6 volte la Germania, ma anche più del doppio rispetto alla Spagna. Peggio di noi fa solo il Portogallo, che ha il 19%, il 20% di sofferenze bancarie rispetto agli attivi, e la Slovenia che ha il 19%, vabbè, poi c'è la Grecia che ha il 46% di sofferenze sugli attivi, quindi per ogni 2 euro di attivo bancario c'è 1 euro di sofferenza. Lo dico perché ieri, appunto, c'è stato l'incontro tra chi è responsabile dentro la Banca Centrale Europea del Consiglio di Vigilanza, il presidente Daniel Nui, mai tenera col mondo bancario italiano, va detto, anche nelle regole con cui vigilare e nel giudizio su banche e banche, la criticammo a suo tempo per l'eccesso di così buonismo nei confronti di una banca tedesca, Deutsche Bank, nella logica di calcolare i derivati come meno pericolosi delle sofferenze, e un eccesso di severità nei confronti delle banche nostre. Detto questo, le nostre sofferenze sono attualmente a 190 miliardi lordi, 88 miliardi al netto delle rettifiche. Che cosa, Moria Longo, buonasera, del Sole 24 Ore. Che cosa si è saputo dell'incontro e qual è l'orientamento che sta prendendo il Consiglio di Vigilanza della BCE? Allora, l'orientamento è quello che hai detto tu con quei dati in questo momento. La Nui, che è il presidente della parte della BCE che fa vigilanza sulle banche, voi sapete che la BCE, la Banca Centrale Europea, è divisa in due anime, quella che fa politica monetaria guidata da Mario Draghi e quella che fa vigilanza sulle principali banche europee guidata appunto dalla francese Daniel Nui. Bene, ieri è venuta in Italia, ha incontrato i 13 maggiori amministratori delegati delle maggiori, cioè 13 amministratori delegati delle maggiori banche italiane, quelle vigilate dalla BCE appunto. Sostanzialmente nell'incontro la Daniel Nui ha ancora posto l'accento ulteriormente sul problema che dicevamo adesso, cioè quello dei crediti deteriorati e dei crediti in sofferenza. La BCE ha detto che farà quest'anno ulteriori ispezioni nelle banche italiane proprio per approfondire questo tema e per vedere il rischio che c'è nelle banche italiane. La stessa Nui ha risposto alla domanda che facevi tu adesso, cioè sul fatto che è accusata di essere troppo rigida con le banche italiane e troppo benevola con le banche tedesche, e non solo, che hanno altro tipo di problemi come i titoli tossici, i liquidi, i derivati e così via. Lei ha detto che non è vero ai banchieri, che lei non è affatto tenera con le banche di altri paesi e che stanno valutando tutti i rischi in tutte le banche. La cosa curiosa è che questo incontro con i banchieri è stato un incontro a senso unico, nel senso, lei parlava ma i banchieri non avevano nessuna possibilità di replicare o di dire a loro. È stata, diciamo, un incontro, una lezione, non sapevo come dire, una lezione quasi, un incontro in cui lei ha detto quello che la BCE farà e ha ribadito, da quanto se ne sa, che il tema dei crediti deteriorati resterà il tema focale, fondamentale per la vigilanza europea sulle banche italiane. Allora, una chiosa sulle sofferenze bancarie. Sicuramente dentro queste sofferenze altissime in Italia rispetto alla percentuale, la percentuale rispetto agli attivi bancari, c'è anche il famoso capitalismo di relazione. Traduco, aver prestato i soldi a amici e amici, tutti gli scandali bancari che stiamo commentando ruotano anche attorno a questo. E quindi aver prestato non per merito di credito, ma perché c'era un interesse politico, di relazione, addirittura anche oltre questo. Però attenzione, perché qualcuno mi scrive dalla Spagna: l'Italia ha la seconda manifattura d'Europa dopo la Germania, ha da sempre un sistema di imprese che è al 95% fatto da piccole imprese, che hanno subito la crisi dal 2008 in poi più delle medie grandi imprese, per tutto un insieme di motivi che abbiamo cercato anche di raccontare, anche perché avevano minor massa critica, minor capacità di adeguarsi al cambiamento, quant'altro. È chiaro che le banche italiane, al di là di tutte, diciamo, i prestiti fatti in maniera scorretta se non illecita, hanno subito anche il crollo della produzione italiana. Abbiamo perso 25 punti di produzione industriale dopo la crisi. Cioè, è chiaro che sono saltati interi distretti industriali, e le banche avevano prestato in molti casi anche a livello meritorio a imprenditori piccoli e medi che non ce l'hanno fatta. Non è colpa degli imprenditori, non è colpa delle banche, c'è stata la più grande crisi dal 29. Questo al netto di tutto il capitalismo di relazione, gli amici degli amici e le simpatiche cose che stiamo raccontando da Etruria in poi, quindi anche Popolare di Vicenza, Veneto Banca, Monte dei Paschi, lì c'è di più, lì c'è proprio un giro ben più ampio che va anche oltre il capitalismo di relazione. Comunque, Moria Longo, l'ipotesi di una bad bank che l'EBA starebbe valutando da 1.000 miliardi, così, è teoria sulla carta? Allora, che serve una bad bank lo dicono in tanti, ed è il motivo per quello che dicevi tu adesso. L'Italia è fatta di tante piccole e medie imprese che dipendono esclusivamente dalle banche per avere finanziamenti, per avere liquidità. Se il sistema bancario è in difficoltà ci finisce l'intero sistema economico, quindi l'Italia intera. Quindi risolvere il problema delle banche, a prescindere dalle inchieste penali che giustamente devono essere fatte sulle responsabilità del credito, come dicevi tu, di relazioni, però c'è un problema sistemico nelle banche italiane che con troppi crediti di sofferenza non riescono, fanno fatica a erogare credito. E questo è il problema, quindi serve una bad bank. Enria, il presidente dell'EBA, l'autorità bancaria europea, l'altro giorno ha proposto di fare una bad bank europea, ma una bad bank talmente complessa, talmente strana, e soprattutto a parte dal presupposto che i rischi non vanno condivisi, cioè il rischio della banca italiana resta nella banca italiana, che rischia di essere completamente inefficace, così com'è stata proposta, al netto del fatto che ancora non si conoscono i dettagli, per cui potrebbe essere migliorata in futuro, ma così com'è, secondo tutti gli addetti ai lavori che ho sentito in questi giorni, rischia di essere l'ennesimo annuncio che non seguono effetti concreti e benefici concreti. Quindi, per chiudere, serve sì una bad bank, meglio se europea o anche italiana, che risolva comunque il problema dei crediti bancari italiani indeteriorati, perché questo è un problema economico. Ma probabilmente il modello proposto dall'EBA non raggiunge questo obiettivo. Allora, chiudiamo dove avevamo iniziato, sulla Grecia, sono ancora sull'euro. Guardate, ribadisco, nel caso di un'uscita dall'euro nel caso tu vada a imbarcare inflazione, oltre che, non oso pensare come facciamo a ripagare il debito e anche i mutui espressi in euro, l'inflazione avvantaggerà sicuramente la valutazione un po' la nostra esportazione, ma ripeto, le aziende italiane di successo ormai si sono già mosse su altri mercati, non è della svalutazione che hanno bisogno di meno burocrazia e meno tasse possibilmente, però va a colpire i ceti più bassi. Ecco quello che mi manda nei pazzi, che quando vedo qualcuno che ha reddito fisso, ha il prelievo in busta paga e ha redditi bassi, che è contento di tornare alla lira. Guardate in Grecia, quando si rischiava di uscire dall'euro, i miliardari, e guardate il flusso di capitali dalla Grecia verso Svizzera e altri paesi. Non vi preoccupate che i miliardari sono i primi a portare i soldi all'estero nel caso di un rischio di imbarcare inflazione come se piovesse e svalutazione della moneta. È ovvio, ma è chi sta qui che la prende in quel posto. Ecco perché trovo assurdo, sembra il tacchino che vuole anticipare il giorno del ringraziamento. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Intanto l'augurio di buona serata da Sebastiano Barisoni a tutti, a chi è per l'euro, a chi è contro l'euro, a chi è per la lira. Radio 24, libera la voglia di fare.